Nei ricordi di ogni uomo ci sono cose che egli non rivela neanche agli amici, ma forse solamente a se stesso, e per giunta sotto il vincolo del segreto. E infine ci sono cose che l'uomo ha paura di svelare anche a se stesso. Per quanto mi riguarda, ho deciso di rammentare alcuni avvenimenti del mio passato che fino a questo momento avevo sempre evitato, e persino con una certa inquietudine. Ma ora non soltanto li ricordo, ho deciso di metterli sulla carta. Voglio fare questo esperimento. È possibile essere completamente sinceri con se stessi e non aver paura della verità? Io sono un uomo malato, un uomo cattivo. In me non c'è nulla di attraente. Credo di essere malato di fegato. Del resto io non comprendo proprio niente della mia malattia e non so veramente cosa ci sia di malato in me. No, non voglio curarmi per cattiveria. Forse voi non potete capirlo. Il fegato mi fa male, che mi faccia pure male. Ci convivo già da molto tempo, da una ventina d'anni. Adesso ho 40 anni. Prima ero un impiegato, ora non lo sono più. Ero un cattivo impiegato. Lo ero solo allo scopo di guadagnarmi il pane. Ero rozzo e ne provavo piacere. E quando alla scrivania dove sedevo si avvicinava qualcuno per chiedermi delle informazioni, io digrignavo i denti e godevo quando riuscivo ad offendere qualcuno. Ciò mi riusciva quasi sempre. La maggior parte delle persone che si rivolgevano a me erano timide. Si capisce, gente che aveva qualcosa da chiedere. Ma tra i belli imbusti che venivano da me, ce n'era uno che io in modo particolare non potevo sopportare. Era un ufficiale. Lui non voleva piegarsi in alcun modo e faceva sempre rumore con la sciabola trascinandola sul pavimento. Tra me e lui fu guerra per più di un anno, proprio a causa della sciabola. Ma ho finito per averla vinta io. Lui dovette rinunciare al frastuono della propria sciabola. Del resto, questo accadde quando ancora ero giovane. Ma sapete, signori, in cosa consisteva il punto cruciale della mia cattiveria? In fondo, tutta la faccenda consisteva nel fatto che io in ogni momento, persino nell'istante della mia più forte irritazione, io dovevo con vergogna confessare a me stesso che non solo non ero cattivo, ma nemmeno irritabile, e che facevo lo spaventapasseri perché mi dava sollievo. Mi veniva la bava alla bocca, ma bastava, per così dire, darmi un giocattolino, offrirmi una tazza di tè zuccherato ed io mi placavo. E questo era sufficiente a commuovermi, sebbene poi in seguito ringhiassi contro me stesso e non dormissi per mesi interi, furente per la vergogna. Ero fatto così. Ma poco fa ho mentito sul mio conto, dicevo di essere un pessimo impiegato, ho mentito per cattiveria. Mi comportavo sgarbatamente con il pubblico e con l'ufficiale, ma in realtà non avrei mai potuto essere cattivo. Forse vi pare, signori, che io adesso mi penta dinanzi a voi e desidervi chiedervi scusa per qualche cosa. Sono persuaso che a voi sembri così. Del resto vi giuro che per me è del tutto indifferente se a voi sembra così. Io non solo non sono cattivo, ma non sono neanche buono, né furfante, né onesto, né eroe, né insetto. Ho 40 anni, e 40 anni sono tutta una vita. E questa è la vecchiaia più profonda. Vivere più di 40 anni sarebbe indecente, di cattivo gusto, immorale. Chi vive oltre i 40 anni? Rispondete onestamente, sinceramente. Chi vive oltre i 40 anni? Ve lo dirò io chi vive oltre i 40 anni. Gli stupidi e i poco onesti. Io lo dirò in faccia a tutti i vecchi rispettabili con i capelli d'argento e profumati. Lo dirò in faccia a tutto il mondo. Io ho il diritto di parlare così perché vivrò fino a 60 anni. Fino a 70 anni, fino a 80, fino a 90. Aspettate. Lasciatemi tirare il fiato. Dicono che il clima di Pietroburgo è nocivo alla mia salute. La mia stanza è brutta e umida, ma io continuerò a rimanere a Pietroburgo. Non me ne andrò via perché... Ma alla fine è perfettamente indifferente che io me ne vada o no. Del resto, di cosa può parlare un uomo col maggior piacere? Risposta di se stesso. E così dunque io vi parlerò di me stesso. Ora, signori, desidero raccontarvi, vi piaccia o non vi piaccia, perché non ho saputo neanche diventare un insetto. Io sono fermamente convinto che qualsiasi coscienza è una malattia. Da cosa è dipeso, se no che in quei momenti, proprio in quegli stessi momenti in cui io ero maggiormente in grado di capire tutte le finezze del bello e del sublime, mi accadeva di commettere tali brutte azioni, quali in una parola forse tutti le commettono, ma che a me capitava di commetterle proprio quando ero maggiormente convinto che non dovevo commetterle. Quanto più io capivo il bene, e quel bello e sublime, tanto più profondamente affondavo nel mio fango, e tanto più mi ci introgolavo. Sulle prime, sul principio, quali sofferenze non sopportai in quella lotta, non credevo che accadesse a tutti gli altri la stessa cosa, e perciò l'ho nascosto in me per tutta la vita come un segreto. Mi vergognavo, e forse me ne vergogno ancora adesso, e arrivai al punto di sentire un certo segreto, anormale e vile godimento. Quando mi capitava di tornare in una orribile notte pietroburghese nel mio cantuccio e di riconoscere decisamente che quella giornata avevo commesso un'altra di quelle brutte azioni e che ciò che era fatto era ormai irreparabile, interiormente, segretamente, mi laceravo con i miei stessi denti, mi stritolavo, mi divoravo, fino a che quell'amarezza si mutava in una ignobile, maledetta dolcezza e alla fine in un deciso e serio godimento. Sì, in godimento. Il godimento proveniva dalla troppa chiara coscienza che avevo della mia bassezza, dal fatto che io stesso sentivo di essere arrivato all'ultimo gradino di essa, che tutto ciò era turpe, ma non era possibile che fosse altrimenti, che non c'era scampo, non potevo diventare un altro uomo. Ma basta, ho chiacchierato fin troppo e che cosa ho concluso? Come spiego dunque questo mio godimento? Ne verrò certo a capo. E appunto per questo che ho preso in mano la penna, no? Dunque, vediamo. Sicuramente avevo già scritto qualcosa su questo argomento. Dunque. Un uomo di siffatta natura è un uomo con una coscienza ipertrofica. Un uomo con una coscienza ipertrofica si sente onestamente un topo e non un uomo. L'uomo normale, se offeso, nella sua innata stupidità considera la sua vendetta semplicemente una manifestazione della giustizia e la compie. Invece il topo, in conseguenza della sua coscienza ipertrofica, nega anche questa giustizia. Cade sotto i colpi dei suoi dubbi, delle sue questioni. Forse quell'ingiustizia era meritata. E tutto ciò diventa nuove ingiurie che si assommano alla prima. Insomma, l'infelice topo, immobile nella melma di esitazioni, viene sommerso dagli sputi rovesciati su di lui dagli uomini dei nervi saldi. Gli uomini dai nervi saldi, che lo circondano solennemente sotto l'aspetto di giudici, di dittatori, che ridono su di lui con tutta la forza della loro sana gola. È evidente che non gli rimane altro da fare che ritirarsi vergognosamente nel suo buco. Ed è precisamente in questo gelido e disperato stato di mezza disperazione e mezza fede che vivo da 40 anni in un sottosuolo. in tutto questo veleno di desideri non appagati, in questa febbre di esitazioni, di decisioni irrevocabili, di pentimenti che sopraggiungono un momento dopo cui si trova il succo di quello strano godimento di cui parlavo. Di questo argomento gli uomini dai nervi saldi non riescono a capirci niente del tutto. Anche su questo argomento mi sa che avevo già scritto qualcosa. Vediamo. Ecco. Questi signori che muggiscono come tori si rassegnano subito davanti all'impossibilità. Impossibilità significa un muro di pietra. Ma quale muro di pietra? Si intende bene le leggi della natura, la matematica, le deduzioni delle scienze naturali. Quando ti avranno dimostrato, per esempio, che tu discendi dalla scimmia, non gioverà corrugare la fronte, ma dovrai prendere la cosa com'è. Quando ti avranno dimostrato che per la matematica 2 più 2 fa 4, protestare non è possibile, provate a contraddire. Protestare non è possibile, 2 più 2 fa 4. La natura non vi chiede certo permesso, essa non ha nulla a che fare con i vostri desideri e non si preoccupa di sapere se vi piacciono o non vi piacciono le sue leggi. Dunque, un muro è un muro. Ma perbacco! Ma che mi importa delle leggi della natura se a me non piacciono? E certamente, io non le abbatterò, non abbatterò questo muro con la fronte se le mie forze non riusciranno ad abbatterlo. Ma non farò pace con lui solo perché c'è davanti a me un muro di pietra che le mie forze non riescono ad abbattere. Vi ho anche detto che io provo una profonda invidia per questo tipo di uomo. Sì, fino all'ultima goccia di bile. Ma nelle condizioni in cui sono, non vorrei essere lui. Sebbene non finisca di invidiarlo. No, il sottoscritto è più invidioso in qualsiasi caso. Ma io mentisco ancora. Mentisco perché io stesso so, come 2 più 2, che il sottosuolo è per il meglio in via generale, ma c'è qualche altra cosa assolutamente diversa che io desidero ardentemente, che non troverò mai. Al diavolo il sottosuolo. Ecco quello che sarebbe meglio per me. Questo. Se io credessi anche ad un poco di ciò che ora ho scritto. Vi giuro, signori, che io non credo neppure a una sola delle parole che ho messo sulla carta. Cioè, forse anche ci credo, ma nello stesso istante non so perché sento e sospetto di mentire come un calzolaio. Ecco un'altra cosa. Per quale ragione, a proposito, io desidero scrivere? Se non è per il pubblico, non è forse possibile ricordarsi tutto nella propria memoria senza scrivere niente sulla carta? Va bene, sulla carta assume un aspetto più solenne, vi è in ciò qualcosa di imponente, si è più severi con se stessi, si migliora lo stile. E per di più, con tutta probabilità, scrivendo, io proverò un sollievo. In questo momento, ad esempio, mi pesa in modo speciale un antico ricordo. Mi è ritornato in mente in questi giorni, chiaramente, e da allora non si è più allontanato da me, come un motivo musicale che non vuole andarsene dalla memoria. Oggi nevica. Una neve umida, gialla, sporca. Anche ieri è nevicato. E i giorni scorsi anche. Se non mi sbaglio, proprio a proposito di questa neve fradicia, ho ricordato quell'episodio che non vuole lasciarmi. Come ti chiami? Lisa. Oggi il tempo, la neve. Sei di qui? No. E di dove sei? Di Riga. Tedesca? No, russa. È molto che sei qui. Dove? Nella casa. 2 settimane. Ah. Hai i genitori? Sì. No. Sì. E dove sono? Là, a Riga. E che fanno? Così. E come così? Chi sono? Di che condizione? Piccoli borghesi. Vivevi con loro? Sì. E quanti anni hai? 20. E perché li hai lasciati? Così. Così. Oggi, mentre trasportavano un feretro, per poco non cadeva a terra. Un feretro? Sì, al mercato del fieno. Lo cacciavano fuori da una cantina. Da una cantina? Non proprio una cantina, sai, da un sottosuolo. Sai, laggiù, no? Da una mala casa. C'era un tanfo intorno. Bucce, sudiciume, un tanfo disgustoso. Si seppellisce così male oggi. E perché male? C'è la neve. È bagnato. Fa lo stesso. No, è disgustoso. I becchini bestemmiavano perché la neve si scioglieva e nella fossa c'era certamente dell'acqua. E perché c'era dell'acqua nella fossa? Ma sì, acqua, 6 pollici almeno. Non è stato possibile scavare neanche una fossa asciutta al cimitero di Volkov. Perché? Ma come perché? Dai, il posto è tutta una palude. Li seppelliscono proprio nell'acqua, l'ho visto io stesso parecchie volte. Non ti importerebbe di morire? E perché dovrei morire? Beh, una volta dovrai morire, no? E tu? Tu morirai precisamente come quella là. Era anch'essa una fanciulla sola. È morta di tisi. Beh, come ragazza doveva morire all'ospedale. Aveva un debito con la padrona. È rimasta in servizio quasi fino alla fine. I cocchieri ridevano. All'osteria hanno bevuto alla sua memoria. Ma è forse meglio morire all'ospedale. Forse lo stesso. Ma poi perché dovrei morire? Beh, non adesso, ma poi? Ebbene, poi. E perché no? Ecco, adesso tu sei giovane, bella, fresca. Ti si apprezza per quanto vali, ma dopo un anno di questa vita non sarai più così. Appassirai. Tra un anno? Tra un anno varrai di meno. Di qui andrai a finire in un altro luogo, più in basso, un'altra casa. Dopo un altro anno in una terza casa, sempre più in basso. Dopo 6 o 7 anni in qualche cantina del mercato del fieno, ma questo è ancora niente. Il male che contrarrai delle malattie, e con una vita simile le malattie passano difficilmente. Si prendono così, in un niente, e non ti lasciano più. E così morirai. Ebbene morirò, fuori! È un peccato. Perché? Perché? Si rimpiange la vita. Ce l'avevi... un fidanzato. Eh? Ma che te ne importa? Ah, io non ti costringo a dirlo, ma che me ne viene? Ma perché ti irriti? Così mi fai pena. Chi? Tu mi fai pena. Non c'è ragione. Ma tu, che ne pensi? Eh? Sei sulla buona via? Eh? Io non so niente. Beh, questo è male che tu non pensi. Pentiti finché sei in tempo, no? Sei ancora giovane, bella, potresti amare, sposarti, essere felice. Non tutte le donne sposate sono felici. Non tutte, si capisce, ma è sempre meglio che qui, no? Non c'è paragone. Se c'è l'amore, si può vivere anche senza felicità. Anche nella disgrazia è bella la vita, è bello vivere nel mondo. Non importa come. Ma qui, oltre il fetore... Tu non guardare me, io... Perché sono qui, non sono un esempio io per te. Forse sono peggiore di te. Del resto sono venuto qui ubriaco. E poi un uomo non può essere affatto un esempio per una donna. Ebbene, dirai che c'è di bene. Ci siamo incontrati. Tu mi hai guardato come un selvaggio e anch'io te. È così che si ama. È così che debbono unirsi 2 esseri umani. È semplicemente una mostruosità, ecco tutto. Sì. Ma... come mai sei venuta qui? Eppure si vive bene nella casa paterna. C'è calore, si è liberi, si ha un nido proprio. E se fosse peggio? Certamente, tutto succede. Io non so nulla della tua storia, ma una ragazza come te non poteva venire qui di sua spontanea volontà. Ma che ragazza sono io? Vedi, Lisa, ti parlerò di me. Se avessi fatto una famiglia quando ero giovane, beh, sarei migliore di quello che sono. Ci penso spesso, sai. Se fossi padre e avessi una figlia, amerei quella figlia. Perché? Così, non lo so. Vedi, io conoscevo un padre che era un uomo severo, rigido, e si inginocchiava davanti alla figlia. Le baciava le mani, i piedi, non si stancava mai di stare in ammirazione, veramente. Io non avrei mai maritato una figlia. E perché? Sarei stato geloso, ma veramente, come potrebbe baciare un altro uomo? Amare un estraneo più di suo padre? Beh, però... Però ci sono quelli che vendono volentieri le proprie figlie, anziché sposarle con onore. Questo, Lisa, accade in quelle famiglie maledette, dove non c'è Dio né amore. Certamente tu devi essere infelice. Tutto ciò succede soprattutto per miseria. E che tra i ricchi va meglio. Anche in miseria vive bene la gente onesta. Sì, forse, dai. Vedi, Lisa, l'uomo ama contare soltanto le sue pene e non le sue gioie, ma se contasse anche queste, vedrebbe che ognuno ha la sua parte. Se una famiglia va bene a Dio, egli manda le sue benedizioni. Con un buon marito che ti ama, ti accarezza, non ti lascia mai, ma come si sta bene in una famiglia così? Com'è bello fare la pace dopo aver questionato, domandare perdono e perdonare. È così bello per tutti e due. L'amore, Lisa, è un mistero divino. Il primo amore coniugale passerà, è vero, ma sopraggiungerà un amore ancora migliore. Le loro anime si saranno fuse, tutte le cose saranno in comune, non ci saranno segreti tra loro. Poi verranno i figli, ed ogni periodo, anche difficile e doloroso, sembrerà felice. Basterà amare e aver del coraggio. Ami i tuoi bambini, Lisa. Io li amo terribilmente, sai, un bel bambino roseo attaccato al tuo petto, ma quale marito il cuore non si volgerà verso la moglie vedendo che ella tiene stretto al petto il suo bambino? Un bambino tutto roseo, delicato, che si stende, fa dei vezzi, le gambette, le manine succose, le unghiette pulite, piccole piccole, così piccole che viene da ridere a guardarle, e gli occhietti, come se gli capisse tutto. E succhia, e ti si attacca al petto con le manine, e gioca. Non è forse questa la felicità? Quando tutti e tre insieme, il marito, la moglie e il piccino, molte cose si possono perdonare in questi momenti. No, Lisa, bisogna prima imparare a vivere, e poi accusare gli altri. Ma voi è come... Che? Voi è... Che? Voi è come se leggeste un libro. Ma Lisa, ma che libro mai? Ma che libro mai, Lisa? Io stesso sento tanta ripugnanza in mezzo agli estranei. Io per primo non so vivere, accuso tutti. Ma è mai possibile che tu pensi non invecchierai mai, eh? Che sarai eternamente bella e che ti si terrà qui per l'eternità? Ora tu sei giovane, vero? Graziosa, bella, piena d'animo. Ma sai, poco fa, quando sono tornato in me, mi ha fatto lì per lì il ribrezzo di essere qui con te. Lisa, ribrezzo! Soltanto quando si ubriachi si può venire qui. Se tu fossi in un altro posto, vivendo come vive la gente onesta, io non solo forse ti avrei fatto la corte, ma mi sarei anche innamorato di te. Sarei stato felice, non dico di una tua parola, ma anche soltanto di un tuo sguardo. Ti avrei considerato come mia fidanzata, anzi, me ne sarei ritenuto onorato. E non avrei osato pensare nulla di impuro di te. Ma qui, ora, basta che io fischi e tu, vuoi o non vuoi, mi devi seguire, perché non è la tua volontà che conta, ma la mia! Tu qui sei indebitata, Lisa. Sarai sempre indebitata. Sarai indebitata eternamente fino a quando i tuoi clienti cominceranno ad essere disgustati di te. E questo succederà presto. Non contare troppo sulla tua giovinezza. Finirai al mercato del fieno. E non ci sarai nemmeno ancora arrivata, che cominceranno a picchiarti. E questa è la gentilezza di quei posti, vedrai. E quando morirai, Ti prenderanno in fretta degli estranei, ti compreranno una cassaccia, ti porteranno via, come oggi hanno portato via quella poveretta, e si ricorderanno di te all'osteria. No, Lisa, la felicità per te è che tu muoia prima, in un angolo qualunque, in un sottosuolo! No, no. Lisa. Lasciami. Lisa, Lisa, mia cara, ho fatto male, perdonami. Ecco il mio indirizzo, Lisa. Vieni da me quando vuoi. Verrò. Adesso io vado via. Addio. Arrivederci. Aspettate. Ad un ballo, una volta, ho incontrato uno studente. E con lui ho ballato tutta la sera. Ci eravamo conosciuti a Riga quando eravamo bambini. Avevamo giocato assieme. Solo che ormai è passato così tanto tempo. Lui aveva conosciuto anche i miei genitori. Ma di questa cosa non sapeva e non sospettava niente. Niente. Il giorno dopo la festa mi mandò quella lettera per mezzo di un'amica. E questo è tutto. Addio. Ma perché le ho dato il mio indirizzo? E se viene? Del resto venga pure, che fa? E se davvero venisse? Ebbene, venga pure, non fa nulla! Ieri le devo essere apparso quasi come un eroe e adesso le farò delle cortesie. Avvolgendomi nella mia vestaglia comincerò a sorridere. Comincerò a mentire. Che vergogna! E non è neppure qui la vergogna maggiore. C'è qualcosa di peggio, di più ignobile, di più vile. Di nuovo mettersi quella maschera disonesta, menzognera. Ma cos'è? Che succede? Lisa, Lisa, sei tornata. Ivan, tu sei il mio salvatore. Ti amo più di qualunque cosa al mondo. Credi tu davvero che io non abbia notato il tuo amore? Ma io ho veduto tutto, ho indovinato tutto, ma non ho osato essere il primo ad avere delle pretese sul tuo cuore perché temevo che tu, per gratitudine, ti saresti sforzata di corrispondere il mio amore. Ma adesso, adesso tu sei mia. Tu sei opera mia, tu sei pura, tu sei bella, sei una bellissima moglie. Entra nella mia casa da padrona, arditamente e liberamente. Lisa. Ivan. Ivan. Lisa. Ivan! Vieni. Siedi. Io voglio andare via per sempre di là. Non vi ho disturbato? Lisa, tu mi hai trovato in uno strano stato d'animo. No, no, no, non pensare niente. Io non ho vergogna della mia povertà. Al contrario, io guardo la mia povertà orgogliosamente. Sono povero ma generoso. Si può essere poveri ma generosi. Ma che cos'hai? Ma che ti succede? Tu mi disprezzi, Lisa. Non è vero. Ma che dici, Ivan? Tu sei il mio salvatore. Io ti amo più di qualunque cosa al mondo. Non mi toccare! Perché sei venuta da me? Rispondi. Rispondi! Io... Te lo dirò io, bella mia, perché sei venuta. Tu sei venuta perché io ieri ti ho detto delle parole pietose. E così tu ti sei commossa e hai voluto ancora delle parole pietose. E allora sappilo, sappilo una buona volta che io... Io mi sono burlato di te. E adesso ancora rido di te. Perché tremi? Sì, ho riso di te. Ero stato insultato prima ad un pranzo e tu mi capitasti sotto e io ho scaricato su di te la mia rabbia e mi sono burlato di te. Mi avevano umiliato e volevo anche io umiliare. Ecco quello che è successo allora. E tu hai pensato che ero venuto apposta per salvarti? È così? È questo che hai pensato? Ma io... Ebbene, ti sbagli! Io ti ho solo detto delle bugie perché io ho solo bisogno di giocare con le parole, di fantasticare, ma in realtà sai cos'è che mi ci vuole a me? Che il diavolo mi porti tutti quanti, ecco quello che mi ci vuole! Io sono un furfante, un egoista, un ozioso, sono il più insidioso dei vermi che strisciano sulla terra. Ti ho detto orora che non mi vergogno della mia povertà. Ebbene, non è vero! Io me ne vergogno più di qualsiasi altra cosa al mondo e non ti perdonerò mai di avermi trovato in questo stato! In questo sottosuolo puzzolente! Ti odio! E ti odierò per questo. Perché non te ne vai adesso? Vattene. Ma cosa vuoi ancora che te ne sei lì davanti a me? Vattene! Vattene! No. No, no, no, non mi toccare. No, non mi abbracciare, no. No, non mi si lasci essere buono. Ecco, tieni, 50 rubli. Vattene, vattene. Addio. Lisa. Lisa. Lisa! Da allora non ho mai più incontrato Lisa. E persino adesso, dopo tanti anni, tutto ciò mi ritorna alla memoria come qualcosa di non buono. Ma non sarebbe bene che io finissi qui queste mie memorie? Mi sembra di aver commesso un errore incominciando a scriverle. Probabilmente non si tratta di letteratura, ma di una pena che io mi sono imposto per migliorare. Perché... In nome di Dio, non è mica interessante fare un lungo racconto per dire che io ho fallito la mia vita ammuffendo moralmente in un angolo. Per mancanza di un mio ambiente, disavvezzo nel mio sotterraneo a tutto ciò che è vivo e pieno di malvagità acuita. Tutti siamo disavvezzi alla vita e tutti, chi più chi meno, zoppichiamo. Siamo arrivati fin quasi a considerare la vera vita viva come una fatica. Quasi una specie di impiego e siamo tutti d'accordo che è meglio com'è nei libri. Io, nella mia vita, ho spinto fino all'estremo quello che voi non avete saputo fare che a metà. Considerando la vostra viltà come prudenza, vi siete consolati ingannando voi stessi. Così che forse io risulterò più vivo di voi. Sentiremo peso anche di essere uomini. Uomini con un vero e proprio corpo e sangue, e ce ne vergogneremo. Lo considereremo una vergogna perché noi cerchiamo di incarnare un tipo di uomo che non è mai esistito. Noi siamo nati morti e già da molto nasciamo da padri che non sono vivi. E ciò ci piace sempre di più. Ci prendiamo gusto. Quanto prima vorremmo nascere da un'idea. Un'idea. Ma basta. Basta. Non voglio più scrivere dal sottosuolo.